arrivando in ritardo alla radio, ma questa è una storia. E 18 e 16 minuti primi in ascolto dai microfoni di Radio Default, andiamo in onda con Radio Cufia, la trasmissione purtroppo di aggiornamento sulla repressione che sta avvenendo in questo ultimo mese e mezzo in Palestina, nella Palestina occupata, e puntate speciali, la penultima delle puntate speciali, perché da settembre ricominceremo con la nostra consueta programmazione ogni giovedì alle 19.30 e ricordiamo velocemente i contatti della radio www.radiodefault.it per poter trovare il nostro sito con il palinsesto, le repliche delle trasmissioni e il calendario delle nostre iniziative di controinformazione e di autofinanziamento, la pagina Facebook Radio Default per essere aggiornati in tempo reale su ciò che sta avvenendo nel mondo e su ciò che questa radio manda in onda, senza dimenticare che potete anche utilizzare questo media per poter interagire direttamente con le trasmissioni, e infine potete sempre venirci a trovare nei nostri studios di Genzano di Roma, in quel di Guidobaldi 56 a Genzano, dove appunto ci potete venire a trovare, potete interagire live con i nostri redattori e soprattutto potete venire a lasciarci qualche spiccetto, che in questo periodo fanno sempre comodo, visto che non campiamo di aria ma campiamo delle sottoscrizioni di chi ci ascolta e di chi ci ama. E quindi siamo arrivati ormai all'ennesimo giorno di repressione su, contro la popolazione palestinese della striscia di Gaza e della West Bank e della Palestina occupata nel 48, giorni di bombardamento iniziati l'8 luglio del 2014, bombardamenti che hanno lasciato sul terreno 2137 martiri, di cui secondo i dati del Ministero della Salute palestinese, di cui almeno 577 avevano meno di 18 anni, sono state cancellate, completamente massacrate, più di 90 famiglie negli ultimi 33 giorni e l'ONU ha fatto sapere che il 70% dei martiri erano civili, che dato in contrasto con il Ministero della Salute palestinese, che riporta una cifra di più dell'80%, mentre 12.000 sono stati i feriti, che si spera che guariscano presto, anche se dobbiamo dire che le strutture sanitarie della striscia, gli ospedali, sono stati colpiti e quindi vi è il pesante rischio, appunto, di morire anche per le ferite meno gravi. La vittima più giovane di queste oltre sei settimane di bombardamento è stato Mustafa Wail al-Ghul, di 24 giorni, ucciso insieme a 8 membri della sua famiglia durante l'attacco e il bombardamento sulla città di Rafah, nel sud della striscia, mentre le altre 4 vittime più giovani erano Rizka Butaha, di 2 mesi, Muhammad Anas, di 4 mesi, Fares Juma al-Mahmoum, di 5 mesi, e Samaha Nael al-Barawi, di 8 mesi. La vittima più anziana è stato Mohammed Mazen Faraj Daer, che è morto il 31 luglio all'età di 99 anni. Quindi la grandissimi massacri in quel della striscia di Gaza, con qualche piccola nota positiva, perché qualche settimana fa, quando eravamo ancora a 1900 vittime, ci è arrivata, abbiamo letto la notizia che in quei 30 giorni di massacro erano sì morti 1900 palestinesi, ma allo stesso tempo le famiglie di Gaza hanno dato alla luce 4.000 bambini, cioè più del doppio dei martiri, e di questo noi ne gioiamo e gli auguriamo una lunga vita e una lunga vita di lotta per la liberazione della loro terra. Ci siamo lasciati la settimana scorsa con la che eravamo agli sgoccioli della tregua, una tregua di 5 giorni poi prolungata di un altro giorno, tregua che è cessata per due motivi. Innanzitutto la mancanza di volontà da parte dell'entità sionista di accettare le proposte della resistenza per la tregua, e poi la resistenza ha deciso di riprendere i lanci di razzi contro gli occupanti dopo che l'aviazione sionista ha rotto la tregua bombardando mercoledì mattina scorso la casa del capo militare di Hamas, Muhammad Deif. Ovviamente Deif non era in casa sua, come è logico che sia, d'altronde non è che se stai facendo una guerra trovi il capo militare nemico sul portone dove c'è il suo cognome sul citofono, però in casa sua vi erano la moglie ed il figlio Ali, di pochi mesi, che sono morti appunto così, in questo attacco in stile mafioso. L'entità sionista da parte sua ha giustificato questa operazione militare assolutamente senza senso, se non la leggiamo in un'ottica appunto prettamente mafiosa, ha giustificato con un lancio di razzi da parte della resistenza, lancio di razzi abbastanza fantomatico perché nessuna fazione della resistenza li ha rivendicati e non si è capito nemmeno dove sarebbero caduti questi razzi, e quindi dopo appunto il martirio della famiglia del capo militare di Hamas, Abu Obeida, il portavoce delle brigate Sedin al-Qassam ha intimato ai mediatori di ritornare, di lasciare immediatamente la seduta del Cairo. Ovviamente non è che vai a trattare quando il tuo avversario ti spara in testa, e ha anche ammonito gli israeliani e tutti i turisti di non utilizzare l'aeroporto di Tel Aviv, perché sarebbe stato oggetto della rappresaglia palestinese. E effettivamente l'altro giorno due razzi M-75 sono cascati sull'aeroporto senza però sortire l'effetto che si era avuto un mese fa con la maggior parte delle compagnie internazionali che avevano annullato i voli dal Cairo. E quindi questo è stato provocato la fine della tregua la settimana scorsa. Ricordiamo l'assassinio della moglie e del figlio del capo dell'ala militare di Hamas, Mohammed Deif, la moglie Widad Deif di 27 anni e il suo figlio Ali, appunto, sono stati uccisi in un attacco prettamente mafioso. Invece abbiamo appena letto, oggi pomeriggio si sono susseguite dei lanci di agenzia, per prima Egyptian Street, un quotidiano egiziano, ha messo in giro la voce di una che si sarebbe oggi raggiunta un'ennesima tregua, tregua che è stata confermata pochi minuti fa, dal presidente dell'autorità palestinese Mahmoud Abbas, che ha dichiarato proprio oggi che è stato raggiunto un accordo per un cessate il fuoco di lungo periodo. Notizia confermata tra l'altro da il vicepresidente del Politburo di Hamas, Musa Abu Marsouk, che ha appunto confermato la notizia. Non si sanno ancora molto bene, non si sanno bene i termini del cessate il fuoco. Da alcune fonti dell'intelligence egiziana si dovrebbe essere finito di sparare da ambo le parti. Si dovrebbero aprire i valichi di frontiera con Gaza per permettere l'ingresso del materiale umanitario e del materiale per la ricostruzione. Ricordiamo che sono di quasi 100.000 le abitazioni distrutte, nonché le infrastrutture civili devastate. Inoltre si dovrebbe essere arrivati a un... si dovrebbe essere raggiunto un accordo per aumentare la zona di pesca per i pescatori gazzawi, e Israele pare che abbia accettato di cessare gli omicidi mirati contro gli attivisti della resistenza e i leader delle fazioni palestinesi. A quanto pare, appunto, il cessate il fuoco è stato accettato da quasi tutte le fazioni, tra cui appunto Hamas e il Jihad Islamico. D'altronde Abu Mujahid, portavoce dell'ala militare dei comitati di resistenza popolare, ha dichiarato che il cessate il fuoco, o gli accordi, i termini del cessate il fuoco dovrebbero ricalcare quelli che il cessate il fuoco ci fu nel 2012 dopo la settimana di attacchi del appunto novembre 2012. Inoltre pare che ha aggiunto Abu Mujahid che verrà eliminata la cosiddetta buffer zone, cioè l'area di confine della striscia di Gaza in territorio palestinese, che era stata dichiarata unilateralmente da Israele zona di interesse di sicurezza nazionale, e quindi che non permetteva, non permettendo quindi l'accesso a quella zona che costituiva anche la zona più fertile della striscia di Gaza. Noi facciamo un breve stacco musicale e ritorniamo qua fra 5 minuti. Thank you. Ritorniamo in onda con Radio Cufia, la trasmissione di aggiornamento sulla repressione che sta vivendo in questi giorni la Palestina occupata. E rimaniamo nella striscia di Gaza visto che appunto poco prima della tregua l'entità sionista ha deciso di lanciarsi proprio nelle stragi di massa. Infatti in questi giorni sono stati proprio i giorni dell'abbattimento delle torri, cioè di vasti complessi residenziali, appunto grattacieli, cioè l'equivalente gazzawi dei grattacieli, perché proprio oggi sono state distrutte appunto due di queste torri residenziali che hanno portato poi alla morte di due persone. Da ieri sera si vociferava l'attacco a Nasser Street, nella centralissima strada centralissima di Gaza City, della torre conosciuta come la Torre Italiana o Little Italy, una torre di 16 piani che è stata completamente distrutta, tra l'altro distrutta con almeno 6 bombe, facendo appunto crollare completamente l'edificio che conteneva 60 appartamenti residenziali e un centro commerciale che è stato appunto completamente distrutto, e non solo, all'interno vi erano anche gli uffici del pericolosissimo Ministero dei Lavori Pubblici della Striscia di Gaza. Subito dopo è stata abbattuta un'altra torre di 14 piani, la torre Al-Basha, nel quartiere occidentale di Rimal, la torre appunto è stata abbattuta e ha portato il ferimento di 15 persone. Tra l'altro parte dell'edificio noi l'abbiamo conosciuto, chi vi parla l'ha conosciuto, perché era la sede della radio del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, Radio Voce del Popolo, radio che è stato che è stata ovviamente distrutta. E questi non sono i primi attacchi contro le torri, perché già sabato scorso proprio nel centro di Gaza City è stata distrutta, è stata completamente rasa al suolo, più che distrutta, una torre residenziale di 12 piani abbattimento in cui sono stati feriti 18 persone, di cui 10 erano bambini, e ovviamente ci sono state decine di famiglie che sono rimaste completamente senza casa. Ovviamente appunto grande utilizzo di artiglieria contro centri che sono prettamente commerciali e residenziali. Appunto chi vi parla ci è stato in una di queste torri e appunto c'erano famiglie, c'erano appunto negozi, c'era in questo caso, nel caso specifico di cui parlo, c'era una radio che ad esempio durante piombo fuso fu molto utile, perché aiutò a coordinare i soccorsi delle varie ambulanze e quindi appunto grande utilizzo di artiglieria. E andiamo a vedere appunto un comunicato rilasciato lo scorso venerdì dal Dipartimento degli Artificieri della Polizia di Gaza City, in cui stimano che sulla striscia dall'8 luglio a oggi sia stato rovesciato praticamente l'equivalente di 6 bombe nucleari. Ovviamente non sono state buttate 6 bombe nucleari, ma sono state buttate circa 20.000 tonnellate di esplosivo, che è appunto l'equivalente di 6 bombe nucleari, su una zona che è grande 360 km quadrati. Ovviamente tutti. Vi sono stati utilizzati vari tipi di bombe, dalle flechette, cioè che sparano bombe che contengono dei dardi che vanno letteralmente a squartare i corpi, alle bombe fuel air, cioè che esplodono due volte, una all'impatto e una dopo l'impatto, le dime, flechette cariche di uranio impoverito e via dicendo. Ovviamente tutte armi che in una guerra convenzionale non si dovrebbero usare perché vanno a creare massiccia distruzione in aree civili, e soprattutto lasciano sono bombe invalidanti, cioè che strappano gli arti, quindi magari sopravvivi, però sopravvivi senza gambe, e che poi andranno... La presenza di uranio impoverito e di altri metalli pesanti andrà a colpire l'ambiente, il suolo e le acque della striscia di Gaza per generazioni. Ricordiamoci che, ad esempio, in Vietnam ancora si stanno pagando le conseguenze ambientali e sanitarie dell'inquinamento provocato dai bombardamenti e dalla deforestazione statunitense, appunto, contro i Vietcong, e lo stesso nella striscia di Gaza. Sono state lanciate all'incirca 8.000 bombe e circa 60.000 colpi di mortaio, in quelle che sono più o meno 1.000, cioè la polizia, gli artificieri della polizia di Gaza sono già rimasti impegnati sono stati impegnati in circa 1.730 missioni di sminamento, cioè di disinnesco delle bombe inesplose, e in una di queste operazioni è morto il maggiore Hazem Abu Murad, che era il vice capo del Dipartimento Esplosivi, mentre appunto stavano disinnescando una delle bombe rimaste inesplose. E Abu Murad era uno dei più importanti esperti e anche formatori di artificieri nella striscia di Gaza. In tutto questo, repressione, ovviamente, la repressione, i bombardamenti indiscriminati non stanno portando solo danni ambientali, ma stanno portando anche danni al settore educativo. Circa il 69% delle scuole governative e dell'ONU nella striscia sono state danneggiate durante gli assalti israeliani, e circa 277 sono state gravemente danneggiate, e oltretutto il 30% delle scuole stanno venendo utilizzate come rifugi per le famiglie che sono rimaste senza casa. Ricordiamo che circa il 25% della popolazione di Gaza è rimasta senza casa, e ciò ha portato allo slittamento dell'anno scolastico. Domenica, l'altro ieri, in tutta la Palestina sono ricominciate le scuole, ma appunto i figli di Gaza non possono, gli viene negato anche questo diritto allo studio, ovviamente dalla repressione sionista. E dall'altra parte della barricata piangono, si è aperta una querel tra gli abitanti sionisti delle zone intorno alla striscia di Gaza, che hanno paura a mandare i figli a scuola, senza contare che nessun razzo palestinese è mai cascato su una scuola sionista. E i genitori hanno detto: ok, se volete far ricominciare l'anno scolastico, fatelo riniziare, ma i ministri del governo di Netanyahu devono accompagnare i nostri figli a scuola. Ma magari succedesse e magari gli cascasse un bel razzo sulla testa. E infine, l'ultima notizia dalla striscia di Gaza, prima di passare agli aggiornamenti regionali e internazionali, è salito a 17 il conto dei giornalisti uccisi dal 7 luglio ad oggi. L'ultimo è stato ucciso ieri, si chiamava Abdullah Fadel Moraccia, ed è stato ucciso mentre si trovava nel quartiere di Al-Shujaia, che abbiamo visto essere stato un quartiere estremamente colpito dalla repressione sionista. e si va aggiungere appunto alla lista degli altri 16 giornalisti uccisi mentre svolgevano il loro lavoro, tra cui l'italiano Simone Camilli, che era un fotografo dell'Associated Press, che è morto durante mentre documentava l'operazione di sminamento, in cui è morto anche Abu Muradi, il capo degli artificieri della Striscia di Gaza. Noi facciamo un altro stacco musicale e ritorniamo con l'ultima round di aggiornamenti. Hello! هاوي وبايده سلاح سلاح سلاح جيش العامل والفلاح الله الله راح العلم الاحمر لا لا لا من رام الله للشياح الله الله شبهاوي وبايده سلاح سلاح سلاح جيش العامل والفلاح الله الله نهج الثور السليم هيك علمنا الحكيم وعن نهج الثور السليم حيوا حكيم السلام حيوا حكيم السلام أمين الجبهة الشعبية راح العلم الأحمر لا لا طيارة للجميع. حيوا وادي السلام، حيوا وادي السلام، صقر الجبهة الشعبية. وراح العلم الأحمر لا لا تعمر دمر أوكارا. هيك علمنا جبارا، مستعمر دمر أوكارا. حيوا جبار السلام، حيوا جبار السلام، شهيد الجبهة الشعبية. وراح العلم الأحمر لا صور العملاء عصر. هيك علمنا النسر، نعصر العملاء عصر. حيوا معين المصري، حيوا معين المصري، نسر الجبهة الشعبية. وراح العلم الأحمر لا لا لا بنهام الله للشيا. E ritorniamo in onda con Radio Cufia, la trasmissione di aggiornamento sulla repressione che sta subendo la Palestina occupata ormai da più di 2 mesi. Lasciamo la striscia di Gaza per un breve aggiornamento dalla West Bank. Infatti proprio oggi, proprio stanotte, c'è stata una retata di arresti che ha portato alla detenzione di 12 dirigenti del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina. Praticamente sono stati arrestati numerosi dirigenti in tutti i maggiori centri della West Bank, vicino Ramallah e a Nablus e via dicendo. Campagna di arresti che arriva una settimana dopo le forze dell'occupazione hanno consegnato un foglio di via per un'altra dirigente, storica dirigente del Fronte Popolare, Khalida Jarrar, che mercoledì scorso si è ritrovata svegliata da una cinquantina di soldati che le hanno consegnato appunto il foglio di via scritto in ebraico, foglio che lei si è rifiutata di firmare, dicendo che per motivi di sicurezza fondati su informazioni segrete che non sono state rivelate ovviamente a lei, gli era stato consegnato questo foglio di via e per 6 mesi doveva trasferirsi nella provincia di Gerico. Ovviamente appunto la Jarrar si è rifiutata di firmare il foglio di via e si è rifiutata anche di uscire da casa sua. E questa è l'ennesima atto di repressione contro la sinistra palestinese che è stato condotto insieme all'autorità palestinese, perché ricordiamoci sempre che la Jarrar, che vive a Ramallah, si trova nella cosiddetta area A, che secondo gli accordi di Oslo dovrebbe ricadere sotto il completo controllo palestinese. e questo significa che la polizia, le forze d'occupazione sono entrate a Ramallah senza dire nulla alla polizia palestinese. La polizia palestinese non si è nemmeno premurata di fermarli, e quindi appunto ci fa capire, questo è l'ennesimo, questa violazione della Convenzione di Ginevra, la quarta Convenzione di Ginevra, non è altro che l'ennesima conferma appunto di quanto gli accordi di Oslo siano un frutto più che mai avvelenato e che sono appunto, come ha descritto qualcuno da questi microfoni, qualche palestinese da questi microfoni, non di certo io, sono forse peggio della stessa Nakba. Ma chi è Khalid al-Jarrar? Khalid al-Jarrar sta attualmente appunto, è una dirigente del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina e attualmente è parlamentare nel cosiddetto Parlamento palestinese dal gennaio 2006, è anche la rappresentante del palestinese nel Consiglio d'Europa e anche capo del Comitato dei Prigionieri appunto, del Parlamento palestinese. In passato è stata una attivista per i diritti umani, è stata la direttrice dell'associazione Ad-Damir dal 93 al 2005 e rimane ancora nel consiglio direttivo di Ad-Damir, e precedentemente ha lavorato nell'organizzazione ONU che si occupa dei rifugiati palestinesi ed è ovviamente ha una militanza ventennale nelle collettivi femminili palestinesi. Dal 98 le è stato impedito di viaggiare fuori dalla Palestina ai territori palestinesi occupati, a parte nel 2010 per motivi di salute, e solo gli è stato permesso appunto di andare in Giordania soltanto dopo una campagna molto forte, perché le è stato appunto impedito, le venne impedito all'inizio anche di andarsi a curare il cancro in Giordania. E questa appunto era l'ultima notizia dalla Palestina. Andiamo a parlare di ciò che succede invece in giro per il mondo, dove andiamo negli Stati Uniti, dove la solidarietà col popolo palestinese si è fatta molto forte, sicuramente più forte che in Italia, dove sono state portate avanti una serie di azioni per bloccare le navi della ZIM, una compagnia di trasporti, una delle più importanti compagnie di trasporti marittimi, oltretutto la più importante compagnia israeliana di trasporti marittimi. Si era iniziato dal porto di Oakland, dove c'è stato un blocco di 4 giorni, blocco che poi si è esteso anche nei porti di Tacoma, di Washington e di Los Angeles. La nave della ZIM quindi è stato impedito l'ingresso grazie a una manovra congiunta degli attivisti di solidarietà col popolo palestinese e con i lavoratori e le lavoratrici dei vari porti, quelli che facevano parte appunto dell'ILWU, il sindacato internazionale dei lavoratori portuali. E questa è stata appunto una bella vittoria per il movimento di solidarietà internazionale, visto che la ZIM, che ricordiamo essere stata fondata come compagnia statale e poi privatizzata, in quanto appunto la ZIM ha dovuto pagare grosse penali per la mancata consegna dei beni che stavano trasportando. Inoltre, ma ovviamente la repressione, queste iniziative non sono esenti dalla repressione, sono stati arrestati sia negli Stati Uniti ma anche in Australia dei gruppi di sostenitori del popolo palestinese per disobbedienza civile. In California, mentre erano in un sit-in non autorizzato davanti all'ufficio della Feinstein, cioè una senatrice californiana che appunto si era rifiutata di incontrare i suoi elettori che volevano incontrarla per chiederle una presa di posizione contro Israele. E poi anche un gruppo di 12 attivisti australiani a Melbourne sono stati arrestati per aver occupato gli impianti della Elbit, una compagnia israeliana che si occupa della costruzione dei droni. solidarietà da parte dei popoli, che però non trova una conseguente solidarietà da parte dei governi, perché malgrado le grandi manifestazioni che si sono tenute nel Regno Unito e malgrado anche le dimissioni di uno dei ministri del gabinetto di Sua Maestà a seguito appunto della politica di Cameron nei confronti dell'occupazione sionista della Palestina, infatti il governo britannico lo scorso 14 agosto ha dichiarato di voler continuare ad armare Israele. Vince Cable, il segretario dell'ufficio che si occupa del commercio estero, ha dichiarato che ha revisionato 130 licenze per l'esportazione di armi britanniche verso l'entità sionista, ma ha annunciato che solo 12 di queste 130 licenze, cioè meno del 10%, verranno sospese. C'è una campagna che da lungo tempo va avanti nel Regno Unito. I liberal democratici dal 2009, da quando è scoppiata l'operazione Piombo Fuso, che chiedono appunto lo stop della vendita di armi all'entità sionista, e questo ovviamente non è avvenuto, anche se è moralmente indifendibile ciò che sta avvenendo in questi giorni. Lo stesso Cameron ci ha messo più di un mese a pronunciare qualche timida parola di reprimenda nei confronti di Israele, però che tocca dire, chi s'assomiglia se pia, come si dice da noi, e anche noi ci assomigliamo e ci pigliamo, perché comunque il nostro governo continua a vendere tramite Finmeccanica degli aerei da addestramento per i piloti, gli stessi piloti che poi vanno a sganciare appunto le 20.000 tonnellate di esplosivi sui civili palestinesi. Ai Castelli Romani però non rimaniamo immobili. Sabato scorso si è tenuta una grande cena con più di 100 persone per sostenere la sanità palestinese, fondi che verranno devoluti all'ospedale Al-Auda nel campo profughi di Jabalia, e altre iniziative si stanno preparando per un settembre che speriamo che ai Castelli diventa caldo per tutti i sionisti. Noi oggi chiudiamo qui questa penultima puntata speciale, noi ci risentiamo giovedì prossimo alle 19.30 sempre sulle frequenze web di Radio Default, www.radiodefault.it. Tenete d'occhio la nostra pagina Facebook Radio Default e Castelli per la Palestina, e noi vi lasciamo con la nostra sigla finale alle ormai scoccate passate da un minuto alle 19. Udrub Udrub Tel Aviv, in onore di tutti i razzi della resistenza che sono caduti sulle teste dei sionisti, di tutti i sionisti, che tutti quei razzi che hanno fatto capire ai sionisti che devono smettere di credere che sganciare bombe sulla Palestina sia una cosa a costo zero. E quindi noi vi auguriamo buona libertà a tutte e a tutti in Italia, ai Castelli Romani e in Palestina.